30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Dopo l'entrata in vigore delle modifiche costituzionali da molti considerate come una svolta autoritaria imposta dal governo di Viktor Orban, la situazione politica in Ungheria sarà al centro di un dibattito nella plenaria del Parlamento europeo mercoledì prossimo a Strasburgo. Mentre il governo di Budapest ha i ferri corti con l'Unione Europea e i mercati bocciano il fiorino, gli ungheresi si sentono sempre più lontani dalla politica. L'Ungheria è sulla strada sbagliata per l'84% dei suoi cittadini, secondo un sondaggio pubblicato in settimana dal giornale economico online Portfoglio.hu. Questa sera parliamo di Ungheria. Questa sera ne parliamo con Peter Magyar, che è un giornalista, classe 1940, ex corrispondente a Roma dell'agenzia di stampa ungherese MTI, già giornalista al settimanale HVG, che di fatto è un settimanale che possiamo rappresentare come l'Espresso Panorama da noi. È nato a Budapest, oggi è corrispondente per l'agenzia di stampa italiana ANSA in Ungheria. Innanzitutto grazie, buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera e buonasera per gli ascoltatori di Radio 24. Allora Peter, si parla di Ungheria, si sa molto poco di Ungheria, si parla di Viktor Orban. Viktor Orban, che è naturalmente il premier, il primo ministro, è l'uomo che nell'aprile del 2010 ha conquistato con il suo partito Fidesz oltre il 52% dei voti, 52,4%, la maggioranza assoluta nel Parlamento, insomma un uomo di grande successo. Ma io ti chiederei di raccontarci il momento in cui politicamente nasce Orban, di riportarci in quel momento di transizione tra il vecchio regime e quello in cui viviamo oggi. Sì, direi è necessario per avere una immagine completa della situazione, della complessità di questa situazione attuale in Ungheria. Orban ha 49 anni quest'anno, relativamente giovane allora, ma ha dietro di sé un itinerario lungo e molto tortuoso, direi. Lui è diventato protagonista già più di 20 anni fa, quando giovane universitario fondava un movimento contro il regime comunista di allora. Siamo all'88, 1988. Lui ha 24 anni, universitario che studia il diritto. Questo suo movimento democratico si trasformava presto in un partito, Federazione dei Giovani Democratici, Fidesz. Oggi è il partito di maggioranza di governo, però anche il suo partito ha fatto una grande strada. All'epoca, 88-89, Fidesz e Orban erano giovani liberali e europeisti, volevano istituire il comunismo con un regime democratico, e Orban, come fondatore di un partito, era partecipante alla tavola rotonda che preparava il cambiamento. Siamo 89, quando i riformisti del partito stato al governo in Ungheria sentivano il bisogno, la necessità assoluta di fare una transizione democratica, e trattavano con i dissidenti, con gli oppositori del regime. E il risultato di questa trattativa era un compromesso che trasformava completamente l'Ungheria. 16 giugno del 1989. Siamo 16 giugno 89, è il funerale di Imre Nagy, capo della rivolta di 1956. 89 è risepolto un funerale con grande partecipazione della massa, 1 milione di persone sulla piazza. Nagy viene fucilato nel 58, impiccato nel 58, e quindi nell'89 si celebra pubblicamente un nuovo funerale. Esatto, perché si sentiva che la democrazia che sta nascendo in Ungheria tira le sue origini dal 56, della rivolta antisovietica. E fra gli oratori di questa grande cerimonia di massa c'è anche Orban, il più giovane, aveva 26 anni all'epoca e ha pronunciato un discorso molto molto coraggioso dicendo: i sovietici devono lasciare l'Ungheria. Era un discorso coraggioso che ha reso molto popolare Orban all'epoca. Il suo partito è entrato in Parlamento alle prime elezioni democratiche, però il governo è stato formato dopo questa prima elezione democratica da una forza che era piuttosto di centrodestra, di un partito tipo democristiano, con a capo un politico indiscusso, si chiamava Jozef Antal, e Orban faceva opposizione a questo governo democratico. Poi la situazione è cambiata qualche anno dopo. Perché? Perché il premier Antal è morto prima del dovuto, diciamo, e aveva una malattia, il cancro, e il campo di centrodestra rimaneva senza capo. E Orban ha sentito il vuoto, ha sentito la possibilità che lui diventasse il capo della destra in Ungheria e ha fatto questa scelta. Il suo partito da liberale europeista si trasformava in un partito conservatore, nazionalista, con accenni religiosi, e lui è riuscito a prendere il posto del capo di questo campo. La carriera di Viktor Orban cresce rapidamente dall'89, quindi già meno di un decennio dopo ottiene un risultato estremamente importante. È un giovanissimo, forse il più giovane, primo ministro ungherese. Certo, a 35 anni, 98, eletto premier dell'Ungheria. È stata una cosa molto significativa, enorme. Comunque forse non è senza importanza di dire che a questo tempo, cioè durante il suo primo governo, Orban è stato un imitatore, un allievo di Berlusconi. Prendeva l'esempio del premier italiano nei suoi metodi, nel suo discorso, nel suo pensiero politico. Forza Ungheria, per esempio. Oppure fondava circoli civici, al esempio dei circoli Milan diventati circoli della Forza Italia. Poi ha fatto un programma copiando quello di Berlusconi, dicendo: creerò 1 milione di posti di lavoro, abbasserò le tasse, aumenterò i pensioni. Tutto questo fino ci porta negli anni 2000, dove però per 8 anni un governo socialista è al potere. Certo, 2002 Orban è sconfitto, hanno vinto i socialisti che sono tornati di nuovo al potere e hanno cominciato 8 anni di governo che era un disastro, fine dei conti, un mal governo, possiamo dire ormai oggi tranquillamente, con aumento dell'indebitamento dello Stato. Loro hanno distribuito vantaggi finanziari a tutti a costo dell'indebitamento dello Stato, che è aumentato da circa 50% del PIL a 80, oltre 80. Poi era tempo di una corruzione sfrenata, posso dire un tangentopoli ungherese, perché i metodi erano gli stessi che si usavano in Italia all'inizio degli anni 90. Il finanziamento dei partiti era illegale per tutti, anche Fidesz, cioè il partito di Orban, faceva la stessa cosa, ma ha riuscito di incolpare di tutto questo soltanto i socialisti. Durante questi 8 anni di governo socialista tanti scandali avevano come protagonista solo i politici socialisti. Il risultato finale è che in 2010 cioè l'anno scorso, i socialisti sono due anni fa ormai, i socialisti sono stati sconfitti duramente come mai, hanno perso 2/3 del loro elettorato e Orban ha conquistato 52% per il, la torsione del sistema elettorale, risultava una maggioranza oltre 2/3 in Parlamento. Ecco, questo accadeva nell'aprile del 2010. Adesso noi ci fermiamo per qualche momento, ma torniamo subito.